Il terzo anello, ad alta voce. Francesco Siciliano legge Con gli occhi chiusi, di Federigo Tozzi. La morte di Anna era stato un vero danno per Domenico. I sottoposti non lavoravano più quanto prima. Ed egli, preso da uno sconforto che lo rendeva furioso, diventava più irascibile. E non era infrequente che se la pigliasse con qualcuno senza nessuna ragione. Si fece anche più economo e dovette rinunciare a molti progetti per la trattoria e per il podere. Doveva lavorare di più e non poteva sopportare la stanchezza. E fu addirittura incapace di pensare per il figliolo come avrebbe dovuto. Lo lasciò quasi libero, ma non di rado. Quando se ne pentiva, lo trattava senza riguardi e con una violenza così sproporzionata che anche Rebecca lo difendeva. E allora smetteva. Ma alla prima occasione faceva peggio, come se avesse dovuto vendicarsi. Anna era morta la seconda settimana di gennaio e tutte le domeniche prima di giorno il trattore andava con due mazzi di fiori alla sua tomba. Avrebbe voluto portarne uno lui e darne uno a Pietro, ma Pietro non l'ubbidiva. Piegando i ginocchi dalle percosse, mortificato, diceva: «Ma perché? Non mi devi dare calci!» Domenico trovava conveniente ammogliarlo presto. Ora che non c'era una padrona nella trattoria, e più di una volta gli aveva misurato con l'occhiata l'aspetto e la statura, per convincersi che non era presto, per quanto avesse soltanto 16 anni. «Io non mi sposerò.» «E allora pensaci bene. Sarò costretto a riprenderla io. Ti dispiacerebbe?» Pietro esitò. Ma per non essere distolto dalla voglia di tornare a scuola, chiese: «E chi sarebbe?» Il padre, per provare il suo vero sentimento, rispose: «Te lo farò sapere presto», e lo guardò. Ma Pietro ne aveva parlato come di cose altrui, e aggiunse: «Mi hanno detto quella signora che ha due figlie, la signora che venne a mangiare anche ieri l'altro». Si trattava di una ciarla e basta. Domenico riprese: «Sarebbe meglio che sposassi tu una di quelle». «Io?» arrossì un'altra volta, perché gli parve una cosa troppo sopra a se stesso, quantunque lo agitasse un poco. «Ti insegnerò quella che mi piacerebbe per te». Egli rise: «Ho capito, la minore». Ma Domenico non rispose più, già pensando che la sera avanti si era dimenticato di mandare a dire ai suoi assalariati che portassero alla monta le vacche. «Se non rispondi, perché ne abbiamo parlato?» si arrischiò a chiedere Pietro. Ma Domenico gridò con collera: «Tu non sei in grado di mischiarti in quello che faccio io. Darai da mangiare anche alla tua moglie? Se non la finisci, vedi, dovresti andare a Poggio a Meli». E come faceva ad ogni occasione, trasse dal taschino del panciotto una piccola corona nera che teneva lì con alcune sterline d'oro e disse la solita frase dopo avergli quasi toccato la fronte con la croce: «Vedi, questo è il ricordo della mia povera mamma Gigella. Io la porto sempre con me. Non mi dette altro quando la lasciai per venire a Siena. E tu che cos'hai che ti ricordi la tua mamma?» Ma accortosi che ora a sua volta Pietro non lo ascoltava nemmeno, si inquietò e gli pareva impossibile che un figliuolo facesse così. E dire che aveva avuto l'intenzione perfino di mettergli il suo nome, tanto doveva assomigliargli, appartenergli. Quasi l'avrebbe preso con le mani per stroncarlo come un fuscello. Proprio il figlio sfuggiva alla sua volontà. Non doveva obbedire più degli altri, invece. Ad un tratto, come un'insinuazione a tradimento, capì che anche egli era come un'altra persona qualunque. E allora sarebbe stato meglio che non gli fosse nato. Perché gli era nato? Meglio non parlargli più, sopportando che camminasse accanto in silenzio, magari a testa bassa, fino a batterla sul lastrico. Erano passati 3 anni e Pietro aveva preso la licenza tecnica. Infatti, rimandato a scuola dopo molte difficoltà e non poca diffidenza, si era impegnato a studiare. Passava tutte le ore libere con i compagni e Domenico permetteva perfino che entrassero a prenderlo dentro la trattoria. Ma fu il tempo che egli cominciò a conoscere le donne. Vi andava di nascosto e per procurarsi i soldi vendeva i libri e qualche oggetto che riusciva a portare via di casa senza che Domenico se ne accorgesse. Un servito di maiolica, alcuni medaglioni di pietre buone e perfino un antico ventaglio d'avorio e di seta. Poi ne rimetteva le chiavi sotto un tondino di lana che faceva da posalume. Uno dei lavoranti a giornata, che Domenico teneva appoggio a Meli, si innamorò di Rebecca e fece capire che l'avrebbe sposata volentieri. Il Rosi, che da qualche tempo aveva fatto venire sempre da Radda un'altra nipote di Rebecca, cugina di Ghisola, pensò che poteva dare il consenso, facendo prendere alla nipote il posto della zia. Fornì lui la dote e molte altre spese, e per di più pigliò cameriere e marito. Dopo la morte di Anna, Rebecca aveva seguitato ad essere in buoni rapporti con il padrone, ma questa nipote Rosaura l'aveva ben presto surrogata, e zia e nipote, finché non avvenne il matrimonio, leticavano anche dentro la trattoria, con grande paura di Giacco e Masa, che non volevano compromettere il pane della loro vecchiaia. Masa si nascondeva perché non la vedessero riposarsi sempre, temendo che l'avrebbero fatta licenziare, tanto più che del padrone si fidava poco anche lei, conoscendolo meglio degli altri. Sedendosi, alzava la sottana, rovesciava in giù le calze di cotone bianco e grattavasi le gambe, dove sentiva continui dolori. Le altre donne che guadagnavano lo stesso se ne accorgevano e perciò le invidiavano e le volevano molto male, chiamandola perfino ladra, ma per stare nelle sue grazie l'aiutavano invece. E infatti Domenico continuava a ben volerla perché lo teneva informato di tutto quel che facevano al podere. Ma Giacco non chiedeva più le chicche a Pietro. Anzi, creduto che gli si fosse fatto cattivo, arrivò al punto di maldolersene con il padrone, dicendogli che se non fosse stato lui, povero vecchio, che tutti spregiavano, appoggio a Meli avrebbero magari rubato i mattoni dell'aia d'accordo con il suo figliolo. «Non ha giudizio, mi permetta di dirglielo, mi scusi anzi, e con me perché ce l'ha presa?» Quando il padroncino gli passava accanto, lo prendeva per una manica dicendogli «Non mi parla più!» Infatti Pietro lo evitava, perché non gli piaceva quel suo modo di fare doppio, che lasciava intravedere senza ritegno come potesse stimarsi anche da più di lui. Rattenendolo, gli diceva con diffidenza che avrebbe voluto sembrare affettuosa. «Eppure io lo conosco fin da bambino, e l'ho tenuto anche sopra le ginocchia. E ha adirato con me, forse?» Procurava di far sorridere Pietro, per non convertire di aver parlato a vuoto, ma ripigliava cupo quasi per convincere con risentimento. «Perché non mi vuol bene?» Pietro non sapeva quel che rispondere, contento di vederlo quasi supplicare. «Eppure ho fatto sempre il mio dovere, e suo padre lo sa, e lo farò finché Dio mi terrà in piedi». E allora la sua voce diventava quasi arrogante. Il giovinetto aveva una specie di repugnanza per quella sua ostinazione certo esagerata, e il vecchio lo guardava fisso. Pietro gli dava un'occhiata timida, divincolandosi. Giacco procurava di sorridere, ma vedendo la fisionomia di Pietro non gli riusciva. Ma Pietro sentivasi liberato anche perché poteva andarsene senz'altro. Una volta gli domandò: «E Ghisola?» L'assalariato si ringalluzzì tutto, intuendo quale poteva essere il mezzo per farsi ben volere dal padroncino, esitando non di meno ad approfittarne. «Oh! Era tanto tempo che non ne parlava più!» «Ma dov'è?» Giacco, invece di farglielo sapere subito, perché avrebbe voluto dir tante cose, si grattò il petto. Pietro girò su se stesso e senza dirgli più niente andò a casa del vecchio con una contentezza immensa. Radda gli pareva a pochi chilometri di distanza. Le spighe del grano, incurvate dai venti e dalle piogge come tanti uncini, avevano un'indoratura tenue. Gli steli erano arruffati e alcuni rotti. Giacco gli gridò dietro. «Ma ascolti! Ma ascolti!» Masa asciugava i piatti, seduta sopra lo scalino di camera. «Il vostro marito m'ha detto che avete una lettera di Ghisola, è vero?» La vecchia, che tante volte aveva pensato di fargliela leggere, gli rispose la verità e poi chiese «Glielo ha detto proprio lui? Non volevate?» E senza aspettare che s'alzasse, entrò in camera, scavalcando la donna, che abbassò tutta la schiena. Masa gli era più simpatica, ma col padrone ella parlava male di lui quanto Giacco. «Ora vengo io. Non frughi nel canterano, non la trova!» Egli disse soltanto stizzito. «Spicciatevi, siete una stupida. Non capite quel che io penso di lei!» Temeva che sopraggiungesse Giacco, dinanzi al quale sarebbe stato zitto, perché talvolta i suoi sguardi lo facevano diffidente, se non cauto. Masa trovò la lettera, ma prima di dargliela disse, tenendola con la mano aperta contro il petto incavato, «Non voglio che ne risappia niente il padrone». «Perché? Chi glielo ridice?» Ella arrossì e rispose, «Perché lo sa meglio di me». Poi mosse le labbra, come quando mordicchiava il refe per infilarlo nel lago. La busta, e a lui dispiacque, era stata strappata a pizzicotti intorno, per cavare la lettera dettata certo a qualche parente, perché Ghisola non sapeva scrivere. Pietro, a voce alta, la lesse tutta. I suoi genitori avevano avuto il morbillo, la zia Giuseppina non poteva allattare la bambina. Allora chiese, «E la fotografia, dov'è?» Masa rideva, e la sua arroganza se ne compiaceva molto. Si pigiò più volte i fianchi con le nocche. Quando rideva, si vedevano i suoi denti fitti e ancora bianchi. «È una settimana che m'è caduta dietro il canterano, mentre la volevo spolverare». Egli scorse, infatti, sotto una fila di santi attaccati al muro, lungo la cordicella, una cornice di vecchio velluto turchino, ma vuota. Quel vuoto con un foglio bianco lo intenerì. «Non avete pensato prima a raccattarla?» Ormai si sentiva certo di vederla e gli pareva di compiere un dovere. Ma Masa, non volendo rimproveri, disse «Saremo a tempo a prenderla. Chi ci pensa? La mattina ci alziamo presto, la sera non abbiamo voglia perché siamo stanchi. Scanserò io il canterano». Egli trasse a sé il canterano tarlato e allora la fotografia, rimasta tra quello e il muro, cadde. La raccolse e senza smettere di guardarla andò verso la finestra con la stessa paura di quando un fulmine è caduto vicino. «Vede com'è fatta bella? Ora le piacerebbe davvero». Pietro comprese istantaneamente quel che volesse dir bella. Il cuore gli si mise a battere in fretta, con una felicità dolce. Non rispose, sentendosi le labbra tremolare. Masa non distolse mai gli occhi da lui, incerta di quel che gli avrebbe fatto o di quel che provava. Le sue palpebre sbattevano. Egli uscì e tutto a un tratto si accorse che era innamorato di Ghisola. E non ci trovò niente di strano né dispiacevole. Anzi, se ne fosse stato più sicuro, l'avrebbe detto subito a Masa, facendole capire che soprattutto si trattava di una riparazione sociale per il cui compito offriva se stesso volentieri. Perché anche lei non doveva essere ricca. Pietro, gracile e sovente malato, aveva sempre fatto a Domenico un senso d'avversione. Ora lo considerava magro e pallido, inutile agli interessi, come un idiota qualunque. Toccava il suo collo esile con un dito sopra le venature troppo visibili e lisce, e Pietro abbassava gli occhi credendo di dovergliene chiedere perdono come di una colpa. Ma questa docilità che sfuggiva alla sua violenza irritava di più Domenico, e gli veniva voglia di canzonarlo. «Quei libri! Li avrebbe schiacciati col calcagno!» Vedendoglieli in mano, talvolta non poteva trattenersi e glieli sbatteva in faccia. Chi scriveva un libro era un truffatore a cui non avrebbe dato da mangiare a credito. E intanto Pietro gli aveva fatto spendere le tasse 3 anni di seguito per la scuola tecnica. Dopo averlo guardato a lungo su un orecchio, su una nuca debole e vuota, faceva gesti belluini, mordendosi il labbro di sotto, piantando all'improvviso un coltello sulla tavola e smettendo di mangiare. Pietro stava zitto e dimesso, ma non gli obbediva. Si tratteneva meno che gli fosse possibile in casa. E quando per la scuola aveva bisogno di soldi, aspettava che ci fosse qualche avventore di quelli più ragguardevoli, dinanzi al quale Domenico non diceva di no. Aveva trovato modo di resistere subendo tutto senza mai fiatare. E la scuola allora gli parve più che altro un pretesto, per star lontano dalla trattoria. Trovando negli occhi del padre un'ostilità ironica, non si provava nemmeno a chiedergli un poco d'affetto. Ma come avrebbe potuto sottrarsi a lui? Bastava uno sguardo meno impaurito perché gli mettesse un pugno sulla faccia, un pugno capace d'alzare un barile. E siccome alcune volte Pietro sorrideva tremando e diceva «Ma io sarò forte quanto te!» Domenico gli gridava con una voce che nessun altro aveva. «Tu!» Pietro, piegando la testa, allontanava pian piano quel pugno con ribrezzo ed ammirazione. Da ragazzo quella voce lo spaventava, gli faceva male. E allora si rincantucciava senza piangere, per essere lasciato solo. Ora ne provava una scontentezza esasperante. E convinto che non avrebbe dovuto soffrire a quel modo, si esaltò sempre di più nelle parole di riscatto e di giustizia, come trovava scritto in certi opuscoli di propaganda prestategli dal suo barbiere. Entrò nel Partito Socialista e fondò perfino un circolo giovanile, prima di nascosto, e poi vantandosene con tutti quelli che capitavano nella trattoria. La sua ambizione diventò allora quella di scrivere articoli in una lotta di classe che usciva tutte le settimane. E se la polizia l'avesse fatto arrestare, sarebbe stato contento. Sognava processi, martiri, conferenze e anche la rivoluzione. Quando un altro lo chiamava compagno, si sarebbe fatto a pezzi per lui, senza nemmeno pensarci. Domenico invece era preso sempre di più dal lavoro e dal potere, e non c'era nessuno che l'aiutasse. Nelle ore di caldo asfissiante, quando la trattoria restava vuota, lo sguattero e il cuoco dormivano con il capo appoggiato sopra il ceppo, coprendosi con i loro grembiuli per via delle mosche che volavano sugli strofinacci untuosi. Si fermavano tutte accosto, intorno ad una goccia di brodo rimasta sopra la tavola. Camminavano in su e in giù sopra i pezzi della carne, strisciandovisi sopra. La marmittona di rame seguitava a bollire. Un gatto sotto la tavola rosicchiava. Una cannella d'ottone mal chiusa sgocciolava con un sibilo incessante. Le due zangole battevano sopra una parete, i riflessi trasparenti della loro acqua che di quando in quando erano attraversati dall'ombra di una mosca. Francesco Siciliano ha letto Con gli occhi chiusi di Federico Tozzi, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello @rai.it. Per scaricare questo programma www.radio3pod.rai.it.